dietro mille parole si nasconde l'anima. Non ho più visto il sole, non so più se aspetterò. Partirò chissà dove, senza niente nessuno, per trovare qualcosa che ancora adesso non c'è. Se ci sei, se è vero che esisti, mandami un segnale, fammi capire perché non c'è più il sole. Mi stai facendo morire, tu non ci sei mai, cercando il mio sole, ho perso anche te. Mi basterebbe sentirti, niente di più, svegliarmi e sentire il sole che c'è. Cercherò di ascoltare il silenzio intorno a me, con la speranza di trovare spiegazioni ai miei perché. Sei lontano mio sole, è una vita che aspetto te. Ti ho cercato davvero, con gli occhi luci verso di te. Dove sei? Non riesco a sentirti, fammi respirare, trovami tra mille persone. Io sono qua senza il mio sole. Mi stai facendo morire.